alzi la mano che non, chi non si è sentito sollazzatissimo all'idea che un buon numero di candidati leghisti, pattisti, neopopolare, pannellisti e berlusconiani siano stati cassati per non aver raggiunto il prescritto numero di firme o altri vizi di forma. Sono cose che danno sempre una certa soddisfazione, anche se a dire proprio il vero non è affatto detto che questa debacle burocratica dell'avversario si risolva automaticamente in un vantaggio per noi, perché è sempre meglio in un sistema maggioritario avere di fronte una destra e un centro ben frammentati in più liste e candidature disponibili a scannarsi tra loro. Ma non si può essere sempre razionali, insomma, non è bello rallegrarsi a disgrazia altrui, ma se gli altrui sono segno e pannella si può fare un'eccezione. Ma c'è una cosa. Non avete trovato significativo anche voi che le forze e persone che più di altre si sono battute per il sistema uninominale si sono trovate così clamorosamente spiazzate alla sua prima applicazione pratica? Segno e pannella, diciamocelo. Praticamente ci hanno imposto con il loro referendum truffa questo modo di andare a votare e adesso non riescono neanche a presentare i loro uomini in tutte le circoscrizioni. Ora, raccogliere 2500 firme a collegio non è difficilissimo, ci sono riusciti anche gli indipendenti più scalcagnati, ma loro evidentemente non ci si sono sufficientemente impegnati, non ci hanno neanche provato, che è una prova in più di come al sistema che hanno inventato non credono neanche loro. Come del resto risultava già abbastanza evidente dal fatto che entrambi hanno affidato le loro personali speranze di rielezione al residuo proporzionale. Oggi comunque, a candidature chiuse, ci rendiamo conto un po' tutti delle delizie del sistema uninominale. I giornali questa settimana hanno dato voce all'angoscia di chi ha scoperto per chi gli toccherà presumibilmente di votare. Ci hanno raccontato di Michele Serra che ha scoperto di essere un presumibile elettore di Ottaviano Del Turco, e ben gli sta, perché lui al referendum ha fatto la campagna per il sì, e della Rossanda e di Cossutta, poveretti che vivendo a Roma Centro dovranno apporre la croce accanto al nome di Bartolo Ciccardini. E in simmetria, in perfetta simmetria, hanno citato il caso di esponenti politici che, imposti in passato come rappresentanti di categorie e di gruppi di interesse precisi, o dalle casalinghe ai gay, hanno scoperto che il loro credito politico improvvisamente si è ridotto a zero, perché nelle zone uninominali essere esponente di una categoria precisa è più una tu che un vantaggio, e le liste proporzionali sono pascolo riservato alla nomenclatura uscente. Insomma, ci hanno parlato di elettori che hanno scoperto di dover votare in nome del meno peggio per chi in nessun modo vi rappresenta, e di eligendi che hanno scoperto di aver perso la possibilità di essere votati dall'elettorato che rappresentavano. Che è ovvio, se si riflette che nel sistema che ci siamo entusiasticamente accollato, l'unica rappresentanza prevista è quella di tipo territoriale. I collegi, in sostanza, sono delle piccole comunità geoterritoriali di meno di 100.000 anime e ciascuno di essi esprimerà un rappresentante. Ma un rappresentante venuto da dove? Questo è il problema. Nella maggior parte dei casi è venuto da altrove. I pochi candidati che si sono presentati in rappresentanza di interessi locali, come per fare un nome il signor Eugenio Girolo, che nel collegio di Milano 2 ha raccolto una per una le sue brave 2500 firme fidando nella sua popolarità in zona, sono stati cassati senza pietà in quanto non collegati a una lista proporzionale, come a dire non ammanicati con i partiti vecchi e nuovi. Tutti gli altri, quasi tutti gli altri, sono stati paracadutati in zona da trattative svoltosi chissà dove, senza controllo degli elettori e senza tener conto delle loro esigenze e tendenze. Così dei furibondi cassa integrati Fiat dovranno votare per il ministro del lavoro che gli ha venduti ad Agnelli, che è candidato appunto alla barriera di Milano a Torino, e degli onesti leghisti, tutti casa e bottega, dovranno mandare in Parlamento degli allegri esponenti antiproibizionisti, anche se personalmente sarebbero favorevoli al linciaggio sul posto di chiunque detenga un centigrammo di fumo per uso personale. Altro che legge truffa, ragazzi. È noto che il sistema maggioritario depriva per definizione della rappresentanza tutti coloro che collegio per collegio votano per lo sconfitto. Ma solo in Italia siamo riusciti a inventarne la variante che lascia non rappresentati o scarsamente rappresentati anche quasi tutti quelli che votano per il vincitore. E a questo punto naturalmente i giochi siamo infatti e come sempre quando si è in ballo bisogna ballare. Io non mi permetterò di suggerirvi come. Oltretutto, essendo ufficialmente aperta da ieri la campagna elettorale, non potrei farlo senza violarne le regole. Ma balliamo pure, naturalmente senza dimenticare la responsabilità di chi in questa odiosa situazione ha contribuito a cacciarci, visto che un anno fa a far festa su quel palco non c'erano solo Segni e Pannella, c'era anche Occhetto, per esempio. Perché vedete, è sempre antipatico e non è particolarmente utile dire che ve l'avevamo detto, ma non è inutile sapere che comunque siamo costretti a giocare con delle carte truccate. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on.